1, 2, 3. Adesso, tra poco ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. E allora eccoci cari ascoltatori, siamo qui e sappiate che la 147esima settimana decisiva per l'abolizione delle province è già cominciata. E voi che state facendo? Che state facendo? Eccoci allora, parleremo un po' di forestali in Sicilia con Oscar Giannino più avanti, parleremo anche un po' di immigrazione, di immigrati, insomma parleremo di vari temi, come sempre le vostre telefonate all'800 24 0024 dalle 8, mi raccomando. Se volete però invece mandare i vostri messaggi via WhatsApp al 349 238 6666. Ancora aperto il contest per il miglior Basta il nostro urlo, l'urlo di Oscar Giannino. Voi mandatecelo via WhatsApp, perché ne sono arrivati di tutti i colori e li sentiremo più avanti. E dai, andiamo a leggere i giornali. È lunedì 22 febbraio, i titoli intanto. Il Sole 24 Ore si concentra su mutui, tasse e prezzi, la casa ritrova appeal, come abbiamo sentito anche da Mauro Meazza, la controcopertina galvanizzata ovviamente dalla vittoria dell'Inter nel giornale radio. Allora, il Corriere della Sera invece, fiducia sulle unioni civili, parla Renzi, che ieri ha parlato al Partito Democratico e ha annunciato l'ipotesi di un emendamento che stralci la parte delle adozioni e ponga la fiducia. Lo vedremo, perché è il tema politico del giorno. Repubblica, adozioni, Renzi tratta sulla Cirinnà, l'appello dei 400, approvatela così. Il Giorno, unioni gay, Renzi sfida il PD. Il Messaggero, Renzi, rinviamo le adozioni. Per il Secolo XIX, unioni civili, l'azzardo di Renzi. Invece La Stampa, Renzi, 7 proposte per cambiare l'Unione Europea. Il Giornale, le spese nascoste del governo, altro che spending review, il premier sbugiardato, nel 2015 la spesa pubblica è cresciuta di 52 miliardi. Libero invece, inchiesta, la mala sanità di Renzi, visite care, tempi lunghi. Abbiamo confrontato i prezzi dei ticket e i periodi d'attesa per 12 consulti specialistici presso strutture pubbliche. E i rincari sono fino al 20% e code di 2 anni. Governo Day è invece il titolo dell'Unità. Palazzo Chigi ci mette la faccia, mentre per il Fatto Quotidiano Renzi sfascia le unioni civili. Come vedete, il tema delle unioni civili sono ben presenti sui giornali. Come il tema della sicurezza, oggi sono 2 articoli interessanti. La prima è un'inchiesta di Repubblica, Fabio Tonacci, pagina 18 e 19. E riguarda la sicurezza soprattutto nelle stazioni ferroviarie italiane, che è aumentata, sono diminuiti i furti soprattutto, perché blocchi e telecamere nelle stazioni più protette, 1/3 di reati in meno. Questo è legato anche alla minaccia degli attentati internazionali, la minaccia dell'ISIS, la minaccia del terrore, della paura. Cosa succede? Che questo ha portato a blindare di più le stazioni ferroviarie e quindi sono state spazzate via tutta una serie di reati legati alla presenza di persone che borseggiavano, rubavano, i furti, le rapine. Negli ultimi 3 mesi del 2014 furti e rapine nell'area dei marciapiedi a Roma erano stati 29 alla stazione Termini, nello stesso periodo del 2015 appena 5. I reati contro i passeggeri si sono ridotti dell'83%. Rispetto al 2014, è l'effetto collaterale virtuoso della vigilanza anti-ISIS. Insomma, la riduzione dei reati dentro le stazioni italiane. Spariti del tutto quasi questuanti, truffatori, attaccabrighe. A gennaio, solo a gennaio, sono diminuiti del 33% del 2016 rispetto allo stesso anno del 2015. Insomma, ci sono dei numeri confortanti legati al fatto che però abbiamo dovuto blindare un po' le stazioni, c'è maggiore controllo, almeno sono un po' più sicuri da un certo punto di vista. Fabio Tonacci lo racconta a pagina 18 e 19 di Repubblica. Sempre sul tema della sicurezza, invece, il Corriere della Sera analizza dei dati molto interessanti Tra l'altro, scrive il Corriere, sul sito del Corriere c'è poi città per città, potete andare a vedere se siete nella vostra città, siete curiosi di vedere che tipologia di reati si compiono, potete farlo. È tutta un'analisi con grafici a pagina 14 e 15 si basa sulle denunce di reato ogni 100.000 abitanti nei comuni italiani. E ci sono delle classifiche abbastanza curiose. Per esempio, sapete qual è la capitale delle denunce per ingiuria in Italia? Uno non lo sospetterebbe mai. Biella! Cittadini di Biella! Siete permalosi, siete litigiosi. E infatti Claudio Del Frate va a intervistare un avvocato di Biella che dice: davvero? È l'avvocato Roberta Froio, titolare di uno studio legale. Davvero Biella è la città con il maggior numero di ingiurie? Ebbene sì, 199 su 100.000 abitanti. Questa è la percentuale, davanti a Novara, poi Isernia, Caltanissetta e Livorno, le prime 5 città per ingiurie. Livorno, toscanacce, quante ve ne dite. Vabbè, questo avvocato di Biella dice: beh, pensate che l'ultima riforma, tra l'altro, del codice ha depenalizzato l'ingiuria, e quindi calerà il lavoro? Non lo so. Comunque la maleducazione delle persone è troppo diffusa, dice questo avvocato, e questo è vero non solo a Biella. La capitale delle estorsioni invece è Bologna, al primo posto, davanti a Firenze, Pescara, Foggia e Siracusa. La capitale dello sfruttamento della prostituzione è Trieste, beh, città anche di confine, quindi forse si può anche capire. Trieste, con il maggior numero di denunce, davanti a Catania, Ravenna, Ancona, Alessandria. La capitale dei furti in abitazione, attenzione, è Ravenna, davanti ad Asti, Torino, Pavia e Milano. Mentre la capitale della contraffazione di marchi e prodotti è Isernia, davanti a Venezia, Napoli, Imperia e Brindisi. La capitale invece dei furti di automezzi pesanti, i camion, è Matera. Matera davanti a Foggia, Catania, Livorno e Alessandria e Pescara, che condividono il quinto posto. Comunque il Corriere della Sera fa un viaggio tra i reati, città per città, pagina 14 e 15, potete trovare tutti i dettagli. Per carità, questi non saranno reati, ma come abbiamo sentito nel giornale radio, ma perché esplodono sempre le consulenze? Le consulenze in Italia, c'è sempre una consulenza pronta per chiunque. Mettetevi in lista se non l'avete ancora fatto. Ma il quotidiano Il Messaggero racconta, pagina 9, che anche quest'anno sono esplose le consulenze esterne a pubblica amministrazione, cioè quest'anno, nel 2014. Perché gli ultimi dati si riferiscono al 2014. Sarà anche vero che i dipendenti pubblici sono in calo, scrive Il Messaggero. A quanto pare, però, nell'era della spending review non è affatto in calo il capitolo delle consulenze esterne. Il conto del 2014 è tornato a impennarsi per la spesa di consulenti e collaboratori esterni della pubblica amministrazione. L'ammontare dei compensi è salito del 61,3% rispetto all'anno precedente. Ma è incredibile. Cioè, da 737 milioni a 1 miliardo 190 milioni. Ed è tutto in controtendenza con la diminuzione della spesa degli anni precedenti. Lo dice a chiare lettere la relazione al Parlamento del Ministro della Pubblica Amministrazione Madia. Un fenomeno dunque che ha subito un considerevole aumento soprattutto nelle regioni e nelle autonomie locali, dove si registra rispetto all'anno precedente una crescita del 113%. Più distanti comparti invece ricerca, più 56%, scuola, più 55% e così via. Ma perché c'è sempre bisogno di una consulenza esterna? Non ci sono abbastanza dipendenti pubblici in grado di fare quelli che sono i compiti di un consulente? Ma sappiamo bene spesso che cosa vuol dire la consulenza, eh? La consulenza poi sono a volte anche voti o prebende. Dai, diciamolo chiaramente. Ma eccoci qui al premio Mani sul Volante per l'articolo che mi fa della giornata. Per iniziare la settimana allegra lunedì, voi che andate al lavoro, magari dovete firmare, dovete timbrare, dovete beggiare, dovete dimostrare la vostra presenza, sappiate che per il comune di Messina non era così. c'erano, ed è un caso scoppiato col nome di Gettonopoli, vari consiglieri comunali di Messina che andavano alla commissione, stavano un minuto, firmavano, andavano via e si beccavano il gettone di presenza. Allora c'è un giudice a Messina, un giudice che ha deciso, si chiama Maria Militello, vengano rilevate le presenze in commissione dai vigili urbani, che si presentino lì e facciano l'appello all'inizio e alla fine della commissione, altrimenti chi non è presente perde il gettone di presenza. Sapete qual è il risultato? Alessandra Ziniti lo racconta su Repubblica: obbligo di firma per i consiglieri e Messina dimezza i gettoni di presenza. Guarda caso, visto adesso che controllano le presenze, sono dimezzati i gettoni di presenza. Perché? Cosa fanno? Assenteista io, dice per esempio questo politico, si chiama Nicola Crisafi, consigliere comunale del Nuovo Centrodestra. Scriva, si chiama assenza politica. Se in commissione vengono ascoltati assessori o dirigenti nei confronti dei quali voglio esprimere il mio dissenso, io ho il dovere di alzarmi ed andarmene. Insomma, costretto dal giudice insieme ad altri colleghi a mettere firma nel quaderno allestito nella guardiola dei vigili urbani, il consigliere comunale Nicola Crisafi non rinuncia a difendere quell'indifendibile realtà immortalata dalle telecamere della polizia che hanno smascherato la più grossa gettonopoli d'Italia, costata quasi 1 milione di euro in un solo anno al comune di Messina. E così, nonostante il DASPO, cioè questo divieto che c'è per partecipare alle manifestazioni sportive, qui ridefinito DASPO, cioè obbligo di firmare per i consiglieri comunali assenteisti, molti, piuttosto che firmare, rinunciano al gettone di presenza. Beh, almeno abbiamo risparmiato. Non ti presenti in commissione? Non ti paghiamo. Eccolo qua. L'obbligo di firma per i consiglieri e Messina dimezza i gettoni di presenza. Sono cose che capitano. Ma che razza di atteggiamento è questo? Cose che capitano. Capitano soltanto perché questo paese è pieno di gente che quando queste cose capitano dice sono cose che capitano. Anche stamattina andiamo a leggere i giornali di Milano. Anche quelli di Roma. E Napolo, e me ci mettiamo pure quello della Sicilia, perché che se cazzo fanno schifo quello della Sicilia. Ma chi è sto genio? Voglio conoscerlo. Ci ha mandato al 349-238-6666, tra l'altro la padronanza dei vari dialetti spaventosa. E allora ci ha mandato la sigla, è geniale, davvero geniale. Allora, ripartiamo dalle unioni civili, cari ascoltatori, perché ieri Renzi ha parlato alla direzione del Partito Democratico. Si attendevano novità ed eccole qui le novità spiattellate. Come Renzi pensa di risolvere l'impasse sulle unioni civili? Da mercoledì si vota al Senato. Beh, ha deciso, è abbastanza chiaro, anche se ieri c'è stato l'annuncio, ora ci dovrà essere la formalizzazione, che la questione delle adozioni per il figliastro, diciamola così, la step child adoption, ormai tutti abbiamo imparato a conoscerla anche se non a pronunciarla, soprattutto al Senato, la step child adoption dovrebbe essere stralciata, dovrebbe essere tolta e dovrebbe essere riscritto un emendamento sul quale Renzi ha detto potremmo anche porre la fiducia. Questo ha fatto storcere il naso alla minoranza del Partito Democratico, Bersani e soci, tanto per capire. Questo fa storcere il naso, anzi fa tappare la bocca alla senatrice Cirinnà, l'autrice di questa legge, no? Che ieri immortalata dalle telecamere si è tappata visibilmente la bocca, come dire non dico niente, non dico niente. Bocca cucita. Questo fa storcere il naso anche al Movimento 5 Stelle, con Di Maio, ieri intervistato da Lucia Annunziata, che dice, ribadisce, ma noi siamo prontissimi a votare la legge. Lancio questo appello, dice Di Maio, sulle unioni noi ci siamo al 100%. Il PD la vuol votare oppure vuol far propaganda sulla pelle dei cittadini? Ma da questo orecchio pare che Renzi non ci senta, perché ha tirato qualche bordata nei confronti del Movimento 5 Stelle pubblica. E poi privatamente sentite cosa dice Maria Teresa Meli a pagina 2 del Corriere della Sera, sempre ben informata di quello che succede nel cerchio magico renziano. Renzi avrebbe detto del Movimento 5 Stelle: han giocato sulla pelle delle persone, il vero ispiratore di questa manovra è Di Maio, sono degli squallidi politicanti che si sono tirati indietro e mi hanno già fregato una volta. Insomma, pare che Renzi non voglia proprio fidarsi una seconda volta del Movimento 5 Stelle. E allora la via obbligata sembra questa. Come racconta Goffredo De Marchis su Repubblica, pagina 3, la via obbligata del Premier, visto che col Movimento 5 Stelle sarebbe un Vietnam, espressione anche brutta e brutale per dire che ci sarebbero voti, ci sarebbero guerriglie, guerre in Senato per raccattare dei voti, ecco allora imboccare la strada segnata, scrivere un maxi emendamento del governo, togliere la stepchild adoption e mettere la fiducia. Ora, io 10 giorni fa ve l'avevo detto, vi avevo messo in guardia, vi avevo detto 10 giorni fa, stai a vedere che alla fine vincerà chi? Vincerà chi, vi avevo detto? Alfano, che da 10 giorni diceva bisogna togliere l'adozione, la stepchild adoption, e possiamo discuterne col governo. Togliete le adozioni e discutiamo col governo. E Renzi diceva no, non si tratta, non ci muoviamo, non la togliamo, non brighiamo. Risultato: probabilmente vincerà Alfano. Infatti Alfano e il nuovo centrodestra trionfali. In 2 interviste, il ministro dell'interno intervistato da Fiorenza Sarzanini a pagina 3 del Corriere della Sera: allora ministro Alfano, ha vinto il nuovo centrodestra, è tutto aperto, risponde Alfano, non è un fatto di vinti o vincitori, noi siamo dalla parte del buon senso, sono cautamente ottimista, ci sono segnali di apertura che vengono dal PD, ma Renzi sarà sottoposto al violentissimo pressing della solita minoranza interna che non è contro di lui, contro di noi, ma contro di lui. Ma vi siete parlati? E ecco qui che Alfano dice: certo, è ovvio che ogni ipotesi di fiducia presuppone l'accordo preventivo con noi sul contenuto della legge, dunque lo stralcio dell'articolo 5 sulla stepchild adoption e anche la non equiparazione al matrimonio. Altrimenti amici come prima e procediamo senza fiducia. Capito che quindi si sente anche ora forte Alfano, alza la voce. Ma insomma, tenete il governo sotto scacco? Risponde Alfano alla Sarzanini: se all'inizio avessi minacciato la caduta del governo, i catto dem non si sarebbero impuntati sulle giuste ragioni e il Movimento 5 Stelle per far cadere il governo avrebbe accettato il canguro, provocando la nostra reazione. Ora ho sempre puntato sul buon senso. E ora è nei fatti che questo atteggiamento non è vintage o fuori moda. Così Alfano, che già pregusta il trionfo, e anche il ministro della Salute, Beatrice Lorenzina, anche lei del nuovo centrodestra, intervistata dal Messaggero. Beh, lei dice, intervistata da Mario Aiello: sono pronta a brindare, è quaresima, non si brinda. Questo è l'inizio dell'intervista. Siamo in quaresima, non si brinda. Però vediamo con soddisfazione che si sta affermando la nostra linea a favore di donne e bambini. Linea rimasta soffocata nella prima fase del dibattito, ora si cerca di trovare una posizione condivisa. Vediamo se ci sarà l'emendamento o se si riuscirà a trovare un ampio consenso in Parlamento, perché per ora Renzi ha aperto 2 strade. Insomma, il ministro Lorenzini e Alfano esultano. Andremo a vedere, questa settimana insomma, la settimana in cui si voterà per le unioni civili. Vedremo che succede. Lasciamo la questione unioni civili e veniamo alla questione conti pubblici. Attenzione, perché ci sono alcuni articoli interessanti che vi voglio sottoporre. Intanto l'allarme del Fondo Monetario sull'Europa. Christine Lagarde, direttore generale del Fondo Monetario, ha detto che l'incertezza sull'Europa è sempre più preoccupante. In un'intervista a un giornale francese non ha nascosto il disappunto anche per l'eventuale Brexit, cioè l'uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea, per la situazione dei migranti. Insomma, un'incertezza sulla solidità dell'Unione Europea, le discussioni sull'adesione della Gran Bretagna, le difficoltà nel coordinare l'azione nell'accoglienza dei profughi, tutte preoccupanti situazioni per il direttore del Fondo Monetario Internazionale. Certo, forse dovrebbe preoccupare un po' di più l'articolo, almeno per le tasche degli italiani, per i nostri portafogli, visto che forse Christine Lagarde, il Fondo Monetario, la vediamo con una cosa un po' distante. Invece sentite un po' cosa scrive Enrico Marro sui conti italiani a pagina 6 del Corriere della Sera, questa è una cosa ben più vicina a noi. I conti pubblici, il tesoro apre il cantiere, c'è il nodo dei saldi per la manovra 2017. Voi pensate nel febbraio 2016 che siamo tranquilli, siamo a febbraio 2016, ma qui stanno già contando i soldi che servono per il 2017 e voi dite, devo capire se riesco a fare le vacanze di Pasqua. E invece qua, eccolo qua, lo Stato italiano, sono passati solo 5 mesi dalla nota di aggiornamento al documento di economia e finanza 2015, ma il DEF 2016 che il governo presenterà il 20 aprile descriverà un deciso peggioramento della situazione economica e dei conti pubblici. Lo scrive il Corriere, pagina 6. Il problema non è tanto quello della possibile manovrina di aggiustamento in corso d'anno, ma la manovra del 2017, coi saldi di finanza pubblica che ballano, la necessità di trovare comunque 15 miliardi per impedire che scatti l'ennesima clausola di salvaguardia, cioè l'aumento dell'IVA dal prossimo 1 gennaio, ai quali 15 miliardi bisognerebbe sommare almeno altri 8 miliardi e mezzo, cioè mezzo punto di prodotto interno lordo, per rispettare il percorso verso il pareggio di bilancio. Insomma, facendo due calcoli, servono come minimo per il 2017 24 miliardi. Ora li avete? Cari ascoltatori, io ho i soliti proverbiali due urini, ma cominciano un po' a essere rosicchiati di qua e di là e quindi cominciano anche a scarseggiare le risorse anche a casa Milan. Comunque, 24 miliardi servono nel 2017, entro il 2017. Questo scrive il Corriere della Sera, pagina 6, e già i tecnici del Tesoro sono al lavoro. Indovinate a chi potrebbero condizionare a chiederli? Sì. A te che ascolti. Anche a Mauro Meazza, per esempio. Anche a Mauro Meazza potremmo chiedergli. Eccolo qua. Sei stato nominato, caro Mauro. Buongiorno, ma io volentieri. Quanto è? 24 miliardi. Ah, 24. Beh, no, scusami, ero confuso perché, sai, noi abbiamo parlato più volte sulle 24 ore della clausola di salvaguardia, che è lì, che ti salvaguarda, più che altro, cioè ti guarda molto da vicino. E in effetti, insomma, bisognerà trovare un modo di superare questa clausola di salvaguardia. Intanto noi, guarda, oggi sul Sole 24 Ore diamo in materia di conti locali, questa volta una notizia anche positiva, cioè sono riprese le spese per investimenti. Allora, la parola spese non ti deve trarre in inganno, perché le spese cosiddette correnti sono diminuite. Invece nel 2015 hanno rivisto un po' il patto di stabilità e i comuni hanno ripreso a investire. Questa può essere una buona notizia. Più 16,5%. Trovi tutto sul Sole 24 Ore di oggi. Poi chiaramente del domani non v'è certezza, caro Milan, i tuoi due urini. Ma a proposito di domani, domani giornatona, perché? Esce il primo numero. Ma mi fa piacere quando ti trovo preparato. Guarda, è una soddisfazione. Domani la prima uscita del corso di educazione finanziaria del Sole 24 Ore, si chiama I tuoi soldi, quindi anche i tuoi due urini sono compresi. Domani significativamente la puntata è dedicata a vincere le paure, perché appunto anche tu sei preoccupato, hai detto prima, per i tuoi due urini che senti rosicchiati. Ci sono stati questi cambiamenti, il bail-in, tutte queste novità. Ebbene, allora, prima uscita del manuale, domani, te lo sei segnato? Come no, è domani. Oh, bravissimo. Adesso. E poi, sempre sul Sole 24 Ore di oggi, sai che si parla della casa. Ma dai, ti ho sentito nel giornale radio uno spumeggiante Mauro Meazza. Insomma, spumeggiante, ero abbastanza ottimista in qualche modo, perché abbiamo visto che ci sono delle fasi, insomma, delle congiunture favorevoli anche per la casa come investimento. E allora ricordati, segnati che venerdì devo morire. Ma sempre questa cosa escatologica. Va bene. Vai sereno, mi viene da dire. Non so se è una frase che mi sembra di aver già sentito. Stai sereno, perché venerdì con il Sole 24 Ore un instant book dedicato proprio a tutte le novità per la casa, comprare, vendere, affittare casa. Molte cose sono cambiate in questo 2016, quindi segnati questo venerdì il nostro ebook. Oh, e poi scusami, che settimana siamo? Scusa, Istanbul. Sì. 147esima di questa 147. Legislatura. Oh, però sappi che scriviamo oggi su Sole 24 Ore, 3149 posti disponibili sono stati segnalati dalle varie amministrazioni proprio per accogliere gli esuberi, tra cui appunto gli esuberi delle ex, delle abolende province. Io direi abolende a questo punto, no? È un processo che si sta portando avanti, magari non velocissimamente, così come si sta portando avanti anche in assenza ancora di una legge, perché siamo solo a disegno di legge, lo smart working. Mm-hmm. Beh, non so se adesso, so che abbiamo dei docenti di inglese anche in ascolto, quindi spero di averlo pronunciato correttamente. Riprova, non come smart working. Lo smart working in Italia già viene applicato da diverse aziende, te lo raccontiamo oggi, te lo raccontano Francesca Barbieri e Valentina Medis sul Sole 24 Ore. Oh. Oh, e poi sappi che domani si giocherà una partita, anche stasera, la quale io ti faccio naturalmente tanti i miei auguri, più sinceri auguri, proprio sinceri. Ma domani se ne giocherà una internazionale, cose che tu e io non vediamo da qualche tempo, e c'è una offensiva delle pay TV contro la pirateria, perché è diffuso un po' questo vizietto di andarsi a cercare la partita sul web. Te lo spieghiamo nelle pagine di Imprese e Territori di oggi. Molte altre cose ti voglio dire, ma attenzione, anche se è lunedì, guarda che sull'Esperto Risponde di oggi parliamo di condominio. Parliamo di morosità in condominio. Cosa può farti ad esempio l'amministratore se con la scusa di avere solo due urini tu non paghi le spese di condominio? Hashtag sapevatelo. E a questo punto la mia parola conclusiva è è una parola differente, naturalmente quella che uso, ed è traffico. Alessandro Milan e te li donghisti due basta triste sit però, eh? Credo di aver capito, ti do io i 2 euro, basta che stai zitto, è così? È una traduzione libera, ma da che dialetto? Ma amiche mie, mi dovete dire il dialetto di da dove viene, perché altrimenti... Vabbè, qua bisogna correre però, non c'è tempo. Mario Monti insiste, in questo dibattito che c'è, sia in Parlamento, al Senato, sia con interviste sulla stampa, sul ruolo dell'Europa, e oggi viene intervistato da Libero, da Luca Telese. Mario Monti, l'ex premier, tra l'altro esordisce l'intervista dicendo è un momento in cui bisogna fare chiarezza, qualcosa di grave che mi preoccupa molto come europeo e moltissimo come italiano sta succedendo. Vorrei che tutti i segmenti dell'opinione pubblica avessero una corretta comprensione delle difficoltà e rischi che corriamo. Ecco perché ho accettato la richiesta di intervista di Libero, pur trattandosi di un giornale che non considero rispettoso dei fatti. Questa è la premessa di Mario Monti, che dice: comincia così, scrive Luca Telese, con questa regola d'ingaggio dura, questo dialogo fitto tra Monti e Libero. E Monti che dice: l'Europa non riesce a gestire come dovrebbe il problema dei profughi, degli immigrati, non contribuisce alla crescita, all'occupazione dei paesi che ne fanno parte, e quindi qui Renzi dice fa bene a incalzare l'Europa, temo però che sbagli indirizzo. In che senso sbaglia indirizzo? Perché i principali responsabili della paralisi dell'Unione Europea, dice Monti, non sono il Parlamento Europeo, la Commissione, le regole, le burocrazie. Non lo è neanche l'assenza della politica, ma sono loro, i capi di governo riuniti nel Consiglio europeo, 28, che sono una cozzaglia di 28 politiche nazionali portate a quel tavolo da 28 persone che decidono per l'Europa avendo in mente non l'interesse generale europeo e neppure l'interesse nazionale del paese che rappresentano, quanto il loro interesse di partito alle prossime elezioni, anzi al prossimo sondaggio. Insomma, un Monti che attacca duramente in questa intervista di una pagina che trovate a pagina 7, l'Europa paralizzata per colpa di 28 egoisti, i capi di governo. A proposito di Europa, ovviamente troverete molto dell'analisi anche della Brexit, cioè l'uscita possibile, si voterà nel referendum, credo il 23 giugno, se uscire o meno dall'Europa. La notizia di ieri è che il sindaco di Londra, Boris Johnson, conservatore, ha inaspettatamente detto: io sono per la Brexit, sono per l'uscita dall'Unione Europea. Viene definito dai giornali alcuni il tradimento di Boris. Per me bisogna lasciare l'Europa. Trovate molto anche di attualità internazionale. Vi segnalo un'intervista al presidente siriano Assad, fatta da El País come giornale, ma riproposta da Repubblica, pagina 12. Assad dice: sono pronto a trattare con il cessate il fuoco, ma non con i terroristi. Questo è ciò che dice Assad. Dopodiché, ragazzi, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo aprire anche noi la Totteide, dobbiamo aprire questo psicodramma. So che mi ascoltate molto a Roma, ma insomma non se ne può. Paginate e paginate, il Messaggero mette a pagina 6, 7, 8, 3 pagine sull'esclusione di Francesco Totti ieri nella partita alla Roma, forse la rottura tra la Roma e Francesco Totti dopo un amore durato 20 anni e di più. Analisi, quando la leggenda esce di scena qua sul giorno. Antonio Padellaro, ex direttore del Fatto Quotidiano, presidente del Fatto Quotidiano, che dedica una pagina intera. Ora fateci la cortesia di rincollare i cocci, di salvare Totti, un patrimonio universale. Universale, scrive il mio amico Antonio Padellaro. Insomma, la Gazzetta, psicodrammi a Roma. Che succede? Adesso, cioè, manco fosse Franco Baresi. Cioè, calmatevi. Forse state un pochettino esagerando con questa vicenda di Francesco Totti. Un pochettino, un pochettino. Comunque, sappiate, per concludere, che è nata a Milano, e so che la nostra Elisabetta Fusconi interesserà sicuramente in redazione questa notizia, è nata a Milano Assocastelli, l'iniziativa che lega nobili e baroni e conti che si mettono insieme, un centinaio di aristocratici, per rilanciare le loro dimore storiche, ville e castelli. C'è per esempio l'avvocato Federico Filippo Oriana insieme al marchese Giacomo Cattaneo Adorno Giustiniani di Gabbiano, oppure il conte Alessandro Calvi di Bergolo e Rocca Saporiti, che si mettono insieme e fanno un'associazione per lanciare le loro dimore. Lo scrive il giornale in un'intera pagina. Ma a questo proposito, la carta costa, l'articolo più inutile sui giornali, l'ho scovato sul Secolo XIX, a pagina 8, una pagina per raccontare che tra poco, con festa molto esclusiva, la duchessa Natalia di Westminster, che vive però spesso a Portofino, farà il primo vermentino e lo farà degustare a pochi, per una esclusiva festa. Arriva il vermentino reale sul monte di Portofino. Ma chi se ne frega!